Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che va in onda ogni giovedì dalle ore 20 alle 21.30 in diretta radiofonica da Radio Onde Furlane. E ora andiamo con un brano dei Contatto. Mi dicono dalla regia no, comunque andiamo con la... scusate, andiamo con la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura per questa trasmissione che è Zardins Magnetics. Chiedo scusa un po' per la gaffe di prima, ma così me l'ho messo io in testa, è una procedura differente. Comunque questo sta a dimostrare che la trasmissione è comunque in diretta, oggi 6 febbraio 2025, ore 20, e il programma andrà avanti fino alle ore 21.30 qui dal studio di Radio Onde Furlane. Trasmettiamo da Udine e ricordo che il programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora andiamo all'ascolto di questa band italiana che da alcuni anni purtroppo non esiste più, la band si è sciolta a quanto pare definitivamente, una band che si è formata proprio alla fine degli anni 90, hanno pubblicato un paio di album, loro sono i Contatto e questo appunto è il loro ultimo album, uscito nel 2017, che si chiama Fino alla fine. Un saluto anche da parte mia per questa puntata di Zardins Magnetics di giovedì 6 febbraio 2025. Andiamo in diretta dagli studi di Via Volturno 29 a Udine, sono le 20 e 16 minuti, siamo ospiti come sempre delle frequenze di Radio Onde Furlane di Udine, emittente del Friuli. Sicuramente ci seguite anche da fuori dal Friuli, perché esiste la possibilità di ascoltarci in streaming grazie appunto alla Radio Onde Furlane in diretta, altrimenti ci state ascoltando, ah sì, importante, ci state ascoltando in replica su altre emittenti, che sono Radiazione, che è un emittente web, radiazione.info, l'altra è Radio Eustachio, anche questa è un emittente web che ci rimbalza ogni settimana il venerdì, tutte e due ci ritrasmettono il venerdì. Ecco, per questa puntata di stasera dovrete supportarmi in quanto la mia voce, in quanto siamo a ranghi ridotti nella parte, diciamo, a voce, e farò del mio meglio insomma per non farvi addormentare. Io inizierei, siccome appunto le cose da dire sono un po' diluite, nel senso che è stato un imprevisto e avevamo insomma programmato diversamente i contenuti, e quindi rimane secondo me sempre valida la chiamata a scrivere innanzitutto ai compagni prigionieri nelle carceri dello Stivale. Fra poco andremo a leggere gli indirizzi e i nominativi a cui poter mandare la nostra, insomma, i saluti, quantomeno, se non la solidarietà, insomma, quella è una cosa un po' diversa. Ma prima di fare questo va sempre anche un saluto alle persone che hanno restrizioni della loro libertà, hanno in piedi dei provvedimenti repressivi, come possono essere avvisi orali, possono essere obblighi di dimora, fogli di via. In particolare ci sono dei compagni qui in Friuli, che hanno diversi compagni che hanno fogli di via da Gradisca, dal comune di Gradisca. E quindi un saluto particolare a queste insomma persone, e poi, come dicevo, andiamo a leggere, ecco, gli anarchici prigionieri. Intanto, allora, aggiornato ottobre 24, in ordine alfabetico di cognome, Anna Beniamino è a Rebibbia, via Bartolo Longo 92, 00156 Roma. Giulio Berdusco alle Vallette, invece, a Torino, via Adelaide Aglietta 35, 10151 Torino. David è un compagno milanese, David Ceccarelli, via delle Novate 65, 29122 Piacenza. Alfredo Cospito, strada provinciale 56 numero 4, località Bancali 0700 Sassari. Luca Dolce, Sanremo, strada Armea 144 18038 Sanremo, provincia di Imperia. Mauro Rossetti Busa, qui c'è l'indirizzo vecchio, si trova a Padova, i due palazzi, non ho non ho qui l'indirizzo preciso. E per ultimo Juan Antonio Soroque Fernandez, Terni, Strada delle Campore 32, 0500 Terni. Oltre a questi ci sono anche i diversi compagni comunisti rivoluzionari, per la precisione 19, tra i quali anche diversi, tre in 41 bis. Questi dovete insomma andare un po' a sgarfare, un po' a cercarli gli indirizzi. Comunque se ne trovano attualmente a Alessandria ne sono 4, a Terni sono in 7, al femminile di Rebibbia 5, e poi ci sono appunto quelli in 41 bis arrestati nel 2003. Ecco, importante anche questo, insomma, dare un segno di solidarietà, di presenza, insomma, ai compagni che si trovano rinchiusi dentro le galere dello Stato, ecco, dello Stato, di qualunque Stato, insomma, quelli che, a cui si può scrivere in italiano. Nella pagina del blog La Nemesi trovate una serie di compagni, anche insomma una lunga lista di compagni in Bielorussia, per esempio, in Cile, anarchici, e in Grecia naturalmente. E, boh, questo è la Russia, non l'ho detto, va bene, ok. Io direi che lasciamo un po' di musica intanto e poi ritorniamo per presentare altre cose. We'll be right back. Allora, dato che avevamo nominato i compagni prigionieri, iniziamo subito con un così delle, un testo sul blog che si chiama Il Rovescio. È un testo relativo a un'ennesima inchiesta per terrorismo in Trentino. Provo inizio a leggerlo, poi insomma magari salto qua e là. I governi passano, la polizia politica resta. Dal 1995 ad oggi abbiamo perso il conto delle inchieste per associazione sovversiva con finalità di terrorismo con cui la Procura di Trento ha indagato e processato qualche decina di anarchici e anarchici in Trentino. Nei giorni scorsi è stata notificata la chiusura delle indagini dell'ennesima operazione poliziesca giudiziaria denominata Diana. Benché simili inchieste non abbiano mai portato a condanne per associazione sovversiva, ma tutt'al più per qualche reato specifico, la polizia politica continua a riprodurre lo stesso schema per colpire le stesse forme di lotta. Perché? Lo scopo? Perché? Domanda. Lo scopo è quello di provare e riprovare alla ricerca di qualche giudice più compiacente, ma il motivo di un tale accanimento sta nei suoi stessi mezzi. Le indagini per terrorismo, fra virgolette, permettono un ampio uso di pedinamenti, intercettazioni audio e video di telefoni, case, auto, spazi pubblici. Si può affermare senza tema di smentite che alcune persone siano i loro amici, familiari, colleghi solidali siano sistematicamente sotto sorveglianza speciale da 30 anni, il che mantiene inalterato, se non in crescita, l'apparato di uomini e mezzi, ditte specializzate, consulenti, reparti speciali della polizia, carabinieri, nonostante il conflitto sociale si sia nel frattempo affievolito, scrivono qui i compagni. Se queste inchieste hanno un fine in sé, perpetuare sorveglianza all'apparato che la esercita, nonché spezzare di continuo progetti di lotta, progetti anarchici di lotta, esse, inchieste, scommettono sul fatto che l'allargamento legislativo della nozione di terrorismo renda possibile prima o poi la sua applicazione in Trentino contro compagni e compagni. Ecco, cioè vuol dire che praticamente vengono descritte qua varie pratiche di lotta che vengono riesaminate in questa inchiesta. Ad alcune compagni e compagne, sì, tra i 12 indagati si contesta di aver redatto giornali, riviste, opuscoli, di gestire il sito irrovescio.info, tutte pubblicazioni accusate di aver teorizzato e promosso le azioni elencate e di costituire di per sé apologie di terrorismo, cosa non nuova, però la novità è potrebbe produrre effetti repressivi più concreti se venisse approvato il DDL ex 1660, il quale contiene tra l'altro il reato di terrorismo della parola di cui avevamo parlato. Vabbè, notiamo di sfuggita che vari di quelli che oggi urlano al fascismo, virgolette, per il nuovo DDL sicurezza, hanno contribuito a questa mistificazione, sia prendendo le distanze dalle pratiche di conflitto di piazza, sia accettando la sovrapposizione tra violenza rivoluzionaria e terrorismo, fra virgolette. Salto e nello specifico questi sono gli episodi elencati nell'operazione Diana. Attacco al Tribunale di Sorveglianza di Trento 2014, per cui Juan è stato assolto in appello. Attacco alla polizia di Brescia, alla scuola di polizia di Brescia nel 2015, per cui Juan è tuttora sotto processo. Tentato incendio di un Frecciargento all'interno della stazione di Bolzano 2015, per cui indagato un compagno. Corteo contro le frontiere al Brennero, maggio 2016, decine già di condannati. Attacco alla sede della Lega a Villorba 2018, per cui Juan è stato condannato già in appello a 14 anni. Contraffazione di documenti, per cui tre compagni sono già stati condannati, qualcuno anche più volte. Sostegno alla latitanza di Juan per un per cui un compagno è già stato condannato, e poi di Stecco, con il quale due compagni sono accusati di aver mantenuto i contatti. Tentativo di leggere a Radio 80 un comunicato in solidarietà coi detenuti, per cui un compagno nel marzo 2020, per cui un compagno è già stato condannato e altre tre compagne sono tuttora indagate. Un presidio, infine, sotto il carcere di Spini di Gardolo e tre manifestazioni blocchi contro il TAV. Anche queste ultime, così come l'episodio di Radio 80, si riferisce probabilmente all'accusa di aver agito con violenza e intimidazione nei confronti di aziende private. Ecco, concludono quindi i compagni trentini. Come ricondurre una simile Macedonia di episodi lontani nel tempo e nello spazio a una presunta associazione? Presto detto, tutti gli indagati promuovono idee politiche di destabilizzazione. Sono cioè anarchici, quindi terroristi. Anche i Sassi dovrebbero aver capito che in tempi di guerra, di genocidio e sorveglianza tecnologica di massa è sempre più facile passare per terroristi. Per questo simili operazioni repressive andrebbero contrastate, se non per solidarietà, almeno per autodifesa collettiva. Per quanto ci riguarda, la conclusione l'abbiamo già scritta anni fa. In fondo siamo in libertà provvisoria da tutta una vita, ma la rabbia per un mondo di gabbie e la complicità con chi si alza al mattino con l'intenzione di battersi sono tutt'altro che provvisorie. Ricordo che stiamo ascoltando in sottofondo questa band statunitense, loro erano gli Hero Is Gone, e questo era il loro album datato 1997, 15 Cones of Erson. Ecco, sempre nord-est, però ci avviciniamo qui al, al posti periferici in cui viviamo e andiamo per ordine. Due iniziative che si terranno venerdì 7 febbraio il mattino a Trieste e sabato invece 8 febbraio il pomeriggio a Gradisca di Sonzo. Allora, va già detto, Trieste, venerdì 7 febbraio, un nuovo presidio di solidarietà per i processati per lo sgombero del porto. Si riferisce al procedimento al Tribunale Trieste per diciamo, gli scontri di piazza avvenuti il 15 ottobre, penso, così vado, 18 ottobre 2021, quando è scattato il Green Pass per andare al lavoro. Allora vado a leggere, sì, ci furono degli scontri perché fu sgomberato il presidio molto partecipato che era stato così chiamato ad un varco del, del porto di Trieste. Allora, dopo due settimane dall'ultima udienza, il 7 febbraio si riapre il processo per lo sgombero del porto, 18 ottobre 2021. Alle 11 di venerdì 7 saremo nuovamente fuori dal tribunale di Trieste in Foro Ulpiano perché ancora una volta non vogliamo lasciare soli i processati, capri espiatori, per punire una mobilitazione di migliaia di persone contro l'infame tessera verde. Alla sbarra ci dovrebbe essere lo Stato, che allora ci ha aggredito, che ha trasformato un virus in una campagna di attacco politico alle nostre libertà, che ha violato lo status del porto di Trieste, oggi tramutato per volontà del governo Meloni in porto dell'Ucraina, e scalo per le armi della NATO. Possono fare quante udienze vogliono, noi saremo sempre pronti a ribadire che loro ci processano, ma la storia li ha già condannati. A venerdì 7, quindi ricordiamo, appunto a Trieste, Foro Ulpiano, davanti al tribunale, ci sarà questa presenza in piazza, insomma, mentre dentro ci saranno, ecco, una delle ultime udienze, mi sembra di aver capito, di questa vicenda. Invece, se seguite Zardins Magnetics, probabilmente avete già, sapete già, siete già, avete già dei ragguagli su questa situazione. E del mese di gennaio al CPR di Gradisca, e insomma, ci sono stati abbastanza movimentato il mese, ecco, ma non diversamente da altri, dagli ultimi insomma mesi, una situazione davvero così tragica. E per cui è stato chiamato, diciamo prima questo, ecco, sabato 8 febbraio davanti al CARA, insomma, sulla strada regionale, nei pressi, insomma, in prossimità della ex caserma Polonio, dove appunto c'era già il CPT, poi il CIE e ora c'è il CPR, ma insomma, lo spazio, insomma, dove ci si troverà è davanti al CARA, davanti al centro per richiedenti asilo, alle ore 15, sabato 8 febbraio, ore 15, presidio contro il CPR, solidarietà ai rivoltosi di Gradisca di Sonzo. Vado a leggervi anche qui la chiamata. Il 21 gennaio nel CPR di Gradisca di Sonzo la paura e l'isolamento hanno cambiato di campo. Dopo due giorni di scontri, diversi fuochi sono stati accesi nella notte, come era già successo durante la notte di Capodanno. Alcuni prigionieri sono saliti sul tetto in segno di protesta. Sono così iniziati gli scontri all'interno del CPR quasi ininterrotti. La risposta della polizia è stata manganelli, lacrimogeni, getti d'acqua contro chi si è ribellato alle torture e violenze. Le rivolte hanno portato alla chiusura dell'area rossa e 35 detenuti sono stati deportati in Tunisia e Marocco o trasferiti in carcere. Però qua poi apriremo una parentesi. Torniamo ancora una volta sotto a quel muro che nasconde un lager etnico legalizzato. Torniamo per portare solidarietà, rompere il silenzio e isolamento verso chi continua a lottare per la libertà e non piega la testa verso uno Stato razzista che vuole l'omogeneità e la pacificazione sociale, perché i CPR si chiudono con il fuoco, non sia solo perché i CPR si chiudono con il fuoco, non sia solo uno slogan, scusate. Sabato 8 febbraio, qui invece dice ore 15:30, scusate, non mi ero accorto, ore 15:30 davanti al CARA, Freedom Urria, Libertà, e la chiamata è firmata Assemblea No CPR del Friuli Venezia Giulia. Ma comunque sulla grafica c'è ore 15, ecco, così non sbagliate. Naturalmente per avere degli approfondimenti vi invito a visitare gli aggiornamenti nofrontierefvg.noblogs.org. Sì, ecco, no, lo dice anche qua. Questo è un aggiornamento del 4 febbraio dell'altro ieri, aggiornamenti dopo le rivolte del CPR. A 10 giorni dalle rivolte del CPR la situazione a Gradisca sembra ritornata alla calma. Sappiamo che si tratta di una tregua apparente. La storia del CPR è da sempre scandita dalle rivolte, proteste, evasioni. Dopo le giornate di battaglia sono state deportate diverse persone, soprattutto in direzione della Tunisia. Altre sono state trasferite in altri CPR, come quello di Trapani e il Corelli a Milano. Altre ancora sono state arrestate e portate nelle carceri. L'area rossa è stata temporaneamente chiusa per diversi giorni, resa inagibile dalla forza delle rivolte. Molti sono stati spostati nelle altre due aree ancora aperte. I nuovi ingressi sono continuati, segno anche che la macchina delle deportazioni funziona imperterrita. Resta la potenza di quelle giornate, i pezzi di CPR divelti, ci sono dei filmati poi, insomma, dove si vedono gli scontri, posti e capienza ridotti e sottratti alla detenzione amministrativa, ai dispositivi materiali del razzismo di Stato. Pubblichiamo un video, eccetera eccetera. Rilanciamo l'appuntamento di sabato 8 febbraio alle ore 15 sotto le mura CPR per portare la solidarietà, la complicità con i reclusi. Sulla stampa invece, sui mass media, forse è il caso di anche questo, di dare anche questa notizia, che appunto quegli arresti lì sono stati sì, cioè volevo dire questo, che appunto sono stati fatti dei rilievi da parte degli sbirri, sì, e hanno ricostruito praticamente secondo loro quelli che erano i responsabili di questi gesti. Però dice contestualmente tre tunisini. Allora, due cittadini tunisini sono stati raggiunti all'interno delle camerate del CPR, dove sono stati tratti in arresto per delitti di devastazione e saccheggio, danneggiamento aggravato, resistenza pubblico ufficiale. Invece tre connazionali, 27, 40 e 32 anni, raggiunti dalla questurini di Gorizia al CPR di Milo, Trapani, dove erano stati nel frattempo trasferiti, venendo arrestati a loro volta per i medesimi fattispecie. Le misure, fa sapere la questura di Gorizia, sono state adottate attraverso il ricorso alla cosiddetta flagranza differita, che è stato inserito, insomma, questa fattispecie inserita nel testo unico sull'immigrazione. Consente di procedere all'arresto nelle 48 ore successive ai fatti di coloro che anche sulla base di documentazione viene, eccetera eccetera. Insomma, il 27 gennaio tutti gli arresti sono stati convalidati e nei confronti degli interessati è stata applicata la misura custode cautelare, veramente uno schifo, veramente uno schifo. Quindi di nuovo, ecco, importante fare pressione, insomma, ognuno come può, su questi carnefici che occupano appunto le autorità, che sono le autorità, questi sono carnefici locali, ecco, intendevo, come appunto gli uffici della prefettura, gli uffici della questura, della pacifica provincia di Gorizia, appunto, eccetera eccetera, nessi connessi. Possiamo, credo, lasciare un po' di musica e poi ritorniamo. ecco, prima di voltar pagina, diciamo, io voglio ancora, mi sono dimenticato di, se volete così avere un quadro un po' più approfondito della situazione anche degli ultimi mesi del CPR di Gradisca, è stato fatto un bel approfondimento su una trasmissione ai nostri insomma, colleghi di Radio Blackout, la trasmissione che viene fatta il venerdì, quindi venerdì scorso, la trasmissione si chiama Arraga, il venerdì pomeriggio dalle 3 alle 4, e appunto c'è chi se l'è perso, c'è il podcast sia sul portale diciamo di Radio Blackout sia al blog NoCPR Torino. Ecco, questo è quanto. Means and ends, deciding where to draw the line. Loss of work in Sellafield homes, or the threat of cancers yet to come. Choice seems obvious, there is no choice, only the option of looking outside. This narrow definition of what you see is all there will ever be. There comes a time when every second, every day, when every action, every thought will tell the world how you cast your vote. Ecco, era un omaggio da parte nostra a Marian Faithfull, che è scomparsa la scorsa settimana, e così una persona che è appartenuta anche lei al grande, insomma, grande, è una generazione, a quella generazione che si è rivoltata contro l'autorità, insomma, dopo la metà del Novecento, insomma, nella seconda metà del Novecento, insomma, erano ragazzi di 20 anni e hanno attaccato tutte le forme di autorità, e quindi, insomma, sì, così vogliamo dedicare queste riflessioni che faremo adesso in maniera molto disordinata alla memoria, ecco, di Marian Faithfull. Allora, nella promozione abbiamo messo una frase di Bakunin che suona più o meno così: Dei, patria, potenza dello Stato, onore nazionale, diritti storici, diritti giuridici, libertà politica, bene pubblico, astrazioni divoranti, come i vampiri della storia, le quali, come i vampiri della storia, si sono sempre nutrite di sangue umano. È una descrizione, insomma, della dinamica di morte di cui lo Stato è portatore, e per ricollegarci anche a quello che abbiamo appena, di cui abbiamo appena parlato poco fa, insomma, al CPR, in particolare a me è scattata così una molla anche. Sì, non credo voluta, insomma, mi è caduto l'occhio, insomma, delle parole, penso in maniera inconsapevole, un compagno dell'Assemblea No CPR, parlando delle forze dell'ordine, giustamente ha detto del loro ordine, nel senso, secondo me, chiaramente sì, si può fare anche ironia o si può fare quello che volete, ma insomma si dice così anche a livello un po' così ironico o scherzoso, forze del disordine, ma di fatto gli apparati polizieschi sono quelle strutture dello Stato che sono nella maniera più evidente, agiscono in maniera arbitraria, sono completamente al di fuori di ogni ordinamento, perché sono lì per, appunto, di fatto imporre l'ordine in maniera, sì, senza formalità, appunto, con la loro stessa presenza, con la loro azione, ed è un ordine, appunto, l'ordine che proviene dall'autorità dello Stato, ecco. Mentre non è vero che chi si oppone a questi abusi è fautore del disordine, semplicemente è portatore di un altro ordine. Da questa semplice distinzione terminologica, ecco, a me potrebbe essere uno degli spunti per iniziare a parlare di questo argomento, ecco, che io già avevo pensato di iniziare stasera, e che appunto è una serie di frammenti, di contributi attorno così all'idea di rivoluzione, più in particolare vedere se appunto il concetto così di per sé è un concetto che è legato al processo storico, no? Ai corsi e ricorsi, perché se c'è una rivoluzione vuol dire che prima c'era uno stato di fatto che viene rivoltato, no? Di solito, appunto, ci si riferisce anche alla rivoluzione copernicana, perché appunto è un ribaltamento dall'eliocentrismo dall'etnocentrismo all'eliocentrismo, no? dalla percezione, quella che è immediata, che è quella del movimento del sole, cioè del fatto che è il sole a muoversi secondo le percezioni sensibili, mentre dal ragionamento, una serie di osservazioni più approfondite segue invece il ribaltamento di questa percezione, ovvero formalmente appunto viene descritta in maniera più accurata questo fenomeno, che è appunto quello della rotazione, insomma della rotazione dei pianeti attorno al Sole. E quindi è possibile uscire da questo legame, da questo accoppiamento sempre tra processo storico e rivoluzione, cioè ribaltamento di uno stato di fatto, oppure e ripensare la situazione rivoluzionaria come qualcosa che sta in piedi da solo, cioè che è autonomo, che non ha bisogno di riferimenti ad altro, è possibile, o invece è una struttura così data, punto e basta, che presuppone che c'è un prima e c'è un dopo, no? C'è una dialettica quindi storica, eccetera eccetera. Lo vedremo, insomma, cercheremo di vederlo. Per cominciare stasera io ritorno lì a Forze dell'Ordine, al loro ordine, appunto, dall'ordine dello Stato e l'ordine altro. L'ordine altro è quello appunto che hanno, ad esempio, concepito quando, insomma, negli ultimi due secoli, quelli che si sono rifatti all'anarchismo come dottrina. Molti, appunto, qua ci sarebbe un dibattito, si è svolto anche un dibattito su questa questione. A un certo punto molti compagni hanno detto l'anarchismo non è una dottrina, è una, diciamo, una dimensione esistenziale, non ha bisogno di essere appunto caratterizzata formalmente né storicamente. Sono più importanti le iniziative in se stesse, cioè il principio dell'anarchismo è l'iniziativa, appunto, e il passare all'azione diretta, insomma, senza tante teorie. Ma questo tipo di discorso, che in sé rimane valido, ma è smentito, cioè non è smentito, rimane, voglio dire, ma finisce per non negare la possibilità, appunto, di evidenziare, cioè di mettere in evidenza come l'anarchismo possa essere caratterizzato come dottrina anche. Perché? Perché è quella dottrina che specificamente è andata a ricostruire la genesi proprio, appunto, dello Stato moderno, di quando si comincia a praticare l'anarchismo in senso stretto, proprio quando dopo la Rivoluzione Francese, o insomma poco prima o poco dopo, con la Rivoluzione del 1789, emerge nella sua, insomma, più nella sua forma più così, nei suoi fondamenti, nei suoi principi, quello che poi diventerà lo Stato moderno, come lo conosciamo, insomma, le basi, i fondamenti. una riflessione, quella appunto delle dottrine anarchiche, che prende le mosse da una fase cruciale di tale processo storico, appunto, quando con la rivoluzione dell'89 e l'imporsi sul continente europeo del modello dello Stato rappresentativo si perfezionano e perciò stesso si evidenziano i tratti tipici di questa forma di organizzazione del potere e si diffondono con le dichiarazioni dei diritti e le teorie liberal-democratiche principi di legittimazione apparentemente inattaccabili. Questa vicenda di lungo respiro, l'anarchismo, di questa vicenda di lungo respiro, l'anarchismo è al contempo il prodotto e l'interprete. Sto leggendo da un vecchio studio, un testo insomma degli anni 80 che si intitolava Stato e potere nell'anarchismo. L'autrice era Mirella Larizza. Ecco, allora, sì, gli anarchici alla fine sono stati quelli che hanno hanno svolto un'analisi di qual è la genesi dello Stato moderno e poi sono arrivati a delle caratteristiche contro cui appunto loro hanno promesso di organizzarsi appunto per abbatterle, con delle proposte che vari autori dalla metà dell'Ottocento in poi hanno cominciato a proporre, e possiamo cominciare per stasera con uno velocemente di questi così autori che possiamo anche dire classici. Il primo di quei che è universalmente conosciuto, insomma siamo più o meno tutti d'accordo nel riconoscere, in William Godwin. William Godwin era pensatore del tardo illuminismo inglese, esponente appartenente a una famiglia calvinista, cioè presbiteriani per la precisione, appunto. Lasciamo da parte per il momento la complessità anche delle sue opere. Andiamo direttamente appunto a quelle che sono le sue analisi intorno Stato e potere. Dice Godwin: poche cose possono essere più assurde del parlare del nostro impegno ad obbedire alle leggi. Perché dovrei promettere che farò qualunque cosa che un certo potere, chiamato governo, riterrà conveniente o deciderà essere adatto per me? V'è morale, giustizia o buon senso in ciò? V'è soltanto un potere al quale posso concedere obbedienza sincera: la decisione del mio intelletto, i precetti della mia coscienza. Obbedirò ai precetti di qualsiasi altro potere con riluttanza e avversione. Allora, è tratto dall'indagine sulla giustizia politica, questa citazione che vi ho fatto, un'opera del 1793. Ecco, lui appunto fissa alcuni caratteri intanto di differenziazione col liberalismo che parallelamente si era sviluppato alla fine del Settecento. Quindi la contestazione di ogni forma di governo, di tutte le forme di governo, di tutti gli stati, e quindi l'indifferenza verso meccanismi costituzionali, no? Non c'è disinteresse, indifferenza e disinteresse verso meccanismi costituzionali. È una denuncia della proprietà privata. Più tardi queste qua saranno anche caratteristiche del socialismo, diciamo quello radicale, iniziale, utopistico, diciamo. I suoi contributi più originali sono appunto quelli dell'analisi dell'autorità anche a livello, diciamo così, psicologico, e quali sono gli effetti del potere autoritario sull'individualità. Cioè sul singolo individuo, che appunto produce questo arbitrio dello Stato, e una proposta, ecco, arriviamo alla di una società decentrata. Altra caratteristica dell'anarchismo, appunto, è non solo la lotta contro l'autorità, contro l'arbitrio, ma anche contro la centralizzazione, quindi contro il centralismo, contro gli spazi, la centralizzazione anche degli spazi insieme al potere. Ecco, vedremo magari un po' meglio in seguito, più avanti. Io direi che un bel po' che parlo, lasciamo un po' di musica, poi concludiamo. Un saluto a tutti e a tutte, in particolar modo a chi ci ascolta dal carcere della Dozza. Questa è Mezz'ora d'Aria e oggi faremo una puntata particolare. Non parleremo di carcere, non parleremo di reclusioni, ma bensì ne canteremo insieme ad un gruppo che ci è venuto qui a trovare. Loro sono il Labile Istante di Vuoto. Ascoltate. Per 25 anni ho sempre pensato che mi avrebbero liberato solo quando avrei finito di scontare la mia pena, nell'anno 9999. Sono fuori dall'assassino dei sogni, il carcere, come lo chiamo io. È difficile uscire dal carcere senza portarti il carcere addosso, specialmente se sai che ci devi tornare. E una volta fuori, la prima cosa che noti è l'odore di libertà. Dopo ti senti come un cieco che apre gli occhi, ti sembra di essere come un morto che è uscito da una tomba, ti senti stupito persino dello stesso stupore che provi, geloso che il tuo cuore ti nasconda parte delle tue emozioni, sei preso da mille pensieri. Ti accorgi com'è bello affacciarsi a una finestra senza sbarre, fuori in cui ogni secondo è vita, sorridi e vivi. Ti accorgi che la vita vissuta è diversa da quella immaginata, da quella che hai sognato per un quarto di secolo. Un giorno entro in un bar, la mia compagna vuole che paghi io per riabituarmi alla normalità. Mi sento a disagio, non mi sento all'altezza della situazione. Mi accorgo che la cassiera mi osserva in modo strano. Confondo il valore delle banconote. Interviene la mia compagna a salvarmi. Mi sembra che i miei figli mi guardino in modo preoccupato, che vogliano leggere nei miei pensieri. Gli specchi a casa mi fanno paura. Non sono più abituato a vedere il mio corpo intero. Mi sembra di vedere l'immagine di un estraneo. Perché in carcere, possiamo vedere di noi solo il viso. Dopo tanti anni bevo e mangio con i bicchieri di vetro e d'acciaio. Mi ero dimenticato che pesano così tanto. Mi cadono facilmente i bicchieri e le tazzine per terra e la mia compagna non si arrabbia. E questo mi fa arrabbiare un po', perché mi sembra che mi tratti come un convalescente, come un reduce di guerra. Rifletto sul fatto che per non disabituarmi a vivere mi sono battuto contro il carcere per tanti anni, disperatamente, col corpo, la mente, il cuore, e mi accorgo che fuori c'è un'altra battaglia da affrontare, perché è dura ricominciare a vivere e io non ci sono più abituato. All'improvviso è già il giorno di rientrare in carcere e così imparo qualcosa su di me che prima non sapevo. Imparo che non sono poi così coraggioso come pensavo, perché non mi è facile tornare in carcere sapendo che la mia pena finirà nell'anno 9999. Credo che la legge degli uomini spesso sia più dura e crudele dei reati che abbiamo commesso. Penso anche che non ci sia vita senza amore, e in carcere purtroppo non ce n'è. Poi sono di nuovo in carcere. Carmelo, dal Due Palazzi di Padova, qualche mese fa. Questo è un estratto di una lettera di Carmelo Musumeci, Frammenti di Libertà. Carmelo è uno dei 1600 che in Italia hanno la pena dell'ergastolo, quindi una pena di lunga detenzione, e da pochi mesi non ha più lo status di ostativo, quindi un fine pena mai. E ha scritto queste righe proprio in occasione di un'uscita, ossimoro della parola, insomma, di un beneficio che dopo 23 anni di carcere gli ha permesso per 10 giorni di riaffacciarsi a un mondo fuori, un mondo che forse non conosceva più. Eccoci di nuovo qui invece in diretta per Zardins Magnetics. Stavamo parlando appunto quest'ultima mezz'ora di così un frammento per dei contributi sull'idea di rivoluzione. Mi sono dilungato sulla rivoluzione copernicana, così mi sono un po' incartato, ma stiamo parlando di rivoluzione, diciamo, sociale, ecco, rivoluzione sociale, quella che hanno proposto gli anarchici, quelli che appunto hanno cominciato alla fine del, insomma, dopo la rivoluzione francese, hanno cominciato a teorizzare, hanno individuato il nemico, le sue caratteristiche e cominciato a teorizzare come potersene liberare. Eravamo arrivati appunto in questo primo frammento, in questo primo contributo alla figura di William Godwin, ancora una questione che pone già all'inizio, ecco, della vicenda William Godwin. La questione appunto della verità, o meglio, insomma, la questione dell'incompatibilità radicale tra verità e istituzione, o tra verità e autorità. Cioè, la verità non può essere imposta, è incompatibile col principio di autorità. Perché? Perché appunto, se ogni individuo può gestirsi da sé, nessuno può imporgli col monopolio della violenza, un principio, una verità. Dice, scrive, ancora nell'indagine sulla giustizia politica. Indubbiamente si è posto con troppa forza l'accento sull'idea, come di un grande e magnifico spettacolo, l'idea di una nazione che decide da sola qualche grande sacrificio pubblico e della più alta magistratura che abbandona i propri diritti di fronte alle decisioni popolari. Tutta la verità deve infine dipendere dalla qualità della decisione. La verità non può essere resa più vera dal numero dei votanti, né è molto meno interessante lo spettacolo di un individuo solitario che testimonia impavidamente a favore della giustizia, benché in contrasto con milioni di persone sviate. Entro certi limiti si può riconoscere la bellezza dello spettacolo, tuttavia. Insomma, la formula democratica elettorale, diciamo, finisce per avere una valenza esclusivamente emotiva, cioè quando si va a votare in balia dell'emotività, come appunto ognuno sa, ognuno ha provato, e il modello democratico quindi lascia il singolo indifeso nei confronti del potere, alimentando in lui un lealismo che lo fa abdicare alla vigilanza critica. Chi appunto si abbandona all'emotività non è più appunto, non è capace di essere di esercitare il proprio spirito critico. E quindi ecco, la democrazia è un pericolo per il singolo, perché appunto prevale l'emotività sulla ragione. E uno dei primi a dirlo è stato uno dei fondatori dell'anarchismo. Questo appunto mi fa venire in mente tante cose, ma anche appunto che le democrazie anche degli anni 20 del 2000 hanno concepito qualcosa come dei lager appunto democratici, dove vengono rinchiuse le persone senza che vi sia stato dimostrato alcun comportamento diciamo criminoso, ma semplicemente per una incongruenza di tipo amministrativo, burocratico. Ecco, io per questa sera mi fermo e do appuntamento alle prossime puntate per proseguire con questo discorso, anche se voglio anche aggiungere alla fine che a parte che è abbastanza così in divenire la mia idea di sviluppare questo argomento, ma ci sono anche ci sono anche degli spunti molto molto recenti su questa vicenda, che quindi vi rimando a puntate che seguiranno di Zardins Magnetics. Un saluto. The power which is in me, because I am reborn, brothers and sisters, I am living proof that government saves. Brothers and sisters, I want us to show our faith in the powers that be, for we are the true believers. I want you to come forward together, come to me, and let us feel the power of the cross. Today's lesson, stay in your homes except on Thursday. Do not stray from the path. It's well signposted, you can't miss it really, and we're open all day. Now there's no need to rush, we've got plenty of pencils for everyone. Now we're collecting tins for your donations. Check credit card facilities available. Government saves, stickers and badges on sale.